Il contagio si propaga ai paesi confinanti. L'economia malese sembrava stabile, ma invece non è così. Ascoltiamo l'ex primo ministro della Malesia, Mahathir bin Mohamad. La nostra moneta era sempre più debole e di conseguenza lo era anche il mercato azionario. Ci sentivamo impotenti. Sembrava che non ci fosse modo di rimediare alla crisi. Il contagio quindi investe l'Indonesia, il paese più popoloso della regione. Il governo cade. Nelle città regna il caos. I manager dei fondi non distinguevano tra Indonesia, Malesia, Thailandia o Singapore. Volevano solo abbandonare i mercati di questi paesi. I prezzi delle proprietà precipitarono, le società fallirono e in Indonesia venne distrutto il tessuto sociale. Furono bruciate chiese e moschee. Ci furono molti morti. Tutto questo in seguito alla crisi economica. È un nuovo tipo di crisi economica, diversa da quelle gestite dal Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale eroga cospicui prestiti all'Indonesia e alle altre nazioni, ma a condizione che taglino le spese statali, alzino i tassi di interesse e cancellino la corruzione. Alla fine del 1997 il contagio si diffonde alla Corea, una delle economie più attive del mondo. Ascoltiamo ancora Robert Rabin. Nell'ultima settimana di dicembre del 1997, l'undicesima economia del mondo, la Corea, aveva circa 4 miliardi di riserve monetarie e ne gestiva 1 miliardo al giorno. Non ci voleva molto per capire che la situazione non poteva durare. La Corea aveva ingannato il mondo finanziario sostenendo di aver denaro a sufficienza per sopportare la crisi. Stanley Fischer del Fondo Monetario Internazionale arriva a Seoul per controllare i conti della banca centrale. Visitai la Corea un paio di giorni prima che chiedesse il prestito al Fondo Monetario Internazionale. Era un paese in preda al panico. Andai alla banca centrale dove mi mostrarono quanto denaro era rimasto nelle casse. Erano praticamente vuote. La Corea riceve 55 miliardi di dollari in nuovi prestiti e in crediti. Fabrizio Galimberti, abbiamo raccontato il miracolo asiatico degli anni 90 e la crisi di paesi come la Thailandia, la Malesia, la Corea del Sud, economie forse deboli o con un sistema finanziario che non ha retto alle prime bolle speculative. Insomma, era già accaduto tutto in Asia e non ce ne eravamo accorti? Ma non ce ne siamo accorti perché c'era ancora quella idea, diciamo, tipica del liberismo acceso, per cui i mercati si aggiustano da soli. Quindi uno dice tanto le cose vanno avanti da solo e se ci sono dei problemi ci sono dei meccanismi di aggiustamento automatici, quindi non bisogna preoccuparsi, mentre invece i meccanismi di aggiustamento sì ci sono, possono anche essere automatici, ma sono anche meccanismi di aggiustamento che sono troppo veloci e rapidi, come il bisturi di un chirurgo, e fanno male. C'era bisogno di un'altra crisi, quella del 2008, quindi. Ma qual è la causa principale del divario tra finanza ed economia reale? Beh, la causa principale sta nel fatto che con l'avvento delle due grandi rivoluzioni furono non solo la globalizzazione ma anche la finanziarizzazione dell'economia, cioè ci si rese conto che giocando con quei candelotti pericolosi che potevano fare molto bene ma anche molto male, come la dinamite che è utilissima nelle miniere ma che se maneggiata propriamente rischia di fare male, ecco che con la finanziarizzazione abbiamo cominciato a giocare con degli strumenti finanziari che hanno acquistato una vita propria, fra la carta e la lamiera. La carta dovrebbe essere al servizio della lamiera, ma quando la carta comincia invece a fare le cose per conto suo può fare male anche alla lamiera. Cioè la legge è ancora troppo indietro? Non solo la legge, ma direi soprattutto il modo di operare degli operatori finanziari e degli operatori reali. Abbiamo degli operatori finanziari che guardano la finanza come un mondo a sé, un mondo che non è più l'ancella dell'economia reale, ma è un mondo che ha acquistato un suo momento, un suo abbrivio e rischia appunto di creare un universo parallelo in cui ci sono delle chine scivolose che abbiamo ben conosciuto. Ma la finanza è un nuovo modo di colonizzare un paese? Ma io direi che la parola colonizzare è troppo forte, perché quando ai tempi delle colonie c'era una volontà deliberata da parte dei paesi colonizzatori di andare a conquistare militarmente un altro paese e sfruttare le sue risorse. Adesso la colonizzazione non è frutto di una politica deliberata, è frutto semplicemente del fatto che esiste una finanza che cerca opportunità di profitto in ogni angolo del pianeta e muove i capitali guardando solo al suo interesse di breve termine. È più subdola, sì, è la finanza mondiale che si muove secondo delle logiche di profitto, ma è un qualche cosa di molto frammentato e quindi più difficile da controllare. Sì, più difficile da contrastare, però appunto adesso per esempio anche il Fondo Monetario comincia a pensare che sia in qualche caso i controlli dei movimenti di capitale siano necessari per evitare appunto queste incursioni di capitali a breve che poi si possono ritirare rapidamente, questo su e giù può far male all'economia dei paesi emergenti. Fabrizio Galimberti, passiamo al Giappone. Qual è il punto di forza dell'economia giapponese? Ma il punto di forza dell'economia giapponese sta, diciamo, nel fatto che è una civiltà infiorata e cesellata, amante veramente dell'ordine, amante della precisione, e questo spiega il loro successo delle industrie di punta nelle alte tecnologie. Il punto debole? Il punto debole è molto legato al suo punto di forza, proprio perché è una società, come dicevo prima, infiorata, cesellata, amante delle tradizioni, è anche una società che trova difficile cambiare. Ancora adesso, per esempio, nelle scuole viene privilegiato l'insegnamento a memoria, viene privilegiato quel tipo di insegnamento che richiede una forte e costante applicazione, e questo a spese della creatività, dato che oggi con la globalizzazione e la telematica c'è molto più bisogno di creatività che di applicazione metodica e costante. Ecco che questo diventa un punto debole per i giapponesi. Grazie Fabrizio Galimberti. Grazie a voi. Mix 24 torna lunedì in diretta, come sempre alle 9. Un ringraziamento a Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana. Mix 24.